Se un giorno qualcuno ti dicesse che tutto ciò che ti circonda non è vero, che tutto il mondo che hai intorno non è reale, cosa penseresti? Sicuramente che al tuo interlocutore, per qualche strano caso della vita, abbia perso il senno, non è vero? Ma se nel corso del tempo allo strano interlocutore si aggiungessero le voci di altre persone, se giorno per giorno ti sentissi ripetere le parole «il mondo che vedi non è reale», non cominceresti a dubitare? Non comincerebbe pian piano ad insinuartisi nel cervello il sospetto che quelle parole potrebbero avere un senso? Tutto a un tratto comincerebbe a capitarti sempre più spesso di scoprire aspetti della vita che mai avresti considerato in passato. Le tue esperienze ti permetterebbero di vedere quegli oggetti nascosti di una realtà che fino a quel momento restava celata. E se ti dicessi che il dubbio che il tuo primo interlocutore tanti anni prima ti aveva soffiato nelle orecchie si trasformasse in consapevolezza, mi crederesti? Tutto a un tratto prenderesti coscienza che la vita che hai di fronte è solo un gioco di luci e specchi, illusione e mistificazione, che molte cose che vedi sono messe lì come veli di Maya che ti nascondono la verità. Prenderesti coscienza che il mondo che è intorno è un mondo costruito, una gabbia invisibile nella quale è stata rinchiusa la tua anima, ormai incapace di distinguere la cattività dalla libertà. La tua vita a quel punto sarebbe profondamente cambiata e acquisiresti una prospettiva completamente diversa per affrontarla. Forse riusciresti a capirne gli intricati meccanismi, forse riusciresti addirittura a intravedere la possibilità di cambiare le cose e da semplice ascoltatore diventeresti tu stesso l'interlocutore di altre persone, saresti proprio tu, scettico e sbalordito in passato, ad aprire i loro occhi. Così come qualcuno ha fatto con te. Bene, ora è venuto il momento delle presentazioni. Mi presento. Il mio nome è Francesco e sono il tuo primo, strano, interlocutore. Benvenuti sulle frequenze di Radio Ciroma 105.7 e ciroma.org per lo streaming live. Noi siamo gli Scarafaggi. Oggi in studio Valentina, Andrea e Italo. Quindi cominciamo con la classica rubrica, la rubrica del giorno. Oggi 2 marzo. 1939, un giorno particolare, nel giorno del suo 63esimo compleanno, il cardinale Eugenio Maria Pacelli diventa papa con il nome di Pio XII. È il papa che in qualche modo favorì, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, la fuga dei nazisti in Sud America. Quindi un papa da ricordare con affetto. Poi, sempre 2 marzo 1946, Ho Chi Minh è eletto presidente del Vietnam del Nord. Ho Chi Minh fu il grande capo rivoluzionario che guidò il popolo vietnamita contro l'invasione statunitense. 1956, sempre 2 marzo, il Marocco si dichiara indipendente dalla Francia. È uno degli episodi della decolonizzazione mondiale che dopo il secondo dopoguerra si avviò in tutto il mondo, e il Marocco finalmente si sgancia dal colosso francese, anche se poi le influenze sono restate in qualche modo per via traversa. Sempre 2 marzo 1974, in Spagna, l'anarchico catalano Salvat Antich e il criminale comune tedesco orientale George Michael Wetzel, meglio noto come Heinz Chess, sono le ultime due persone ad essere giustiziate mediante il metodo della garrota. Una particolarità, una cosa particolare. La garrota è praticamente il fil di ferro intorno al collo, quindi un metodo molto strano di uccidere le persone con gli spagnoli nel 74. Poi andiamo avanti. Meglio di ISIS. Sì, sì, sì. Che anno era? 74. Ah, l'altro ieri. Sì, sì, vabbè. Pensa, ancora ce l'ha Franco, quindi. Poi, 1989, sempre 2 marzo, le 12 nazioni della Comunità Europea si accordano per azzerare la produzione di clorofluorocarburi, CFC, entro la fine del secolo. Fu una delle risoluzioni più importanti dal punto di vista ambientalista dopo la scoperta del buco dell'ozono. Probabilmente ancora il CFC si produce. Quindi sì, sicuramente, però è stata una misura che ha tamponato parecchio. Una cosa doverosa, visto che comunque si sapeva che il CFC aveva degli effetti deleteri sull'ambiente già da... Diciamo che è stato abbandonato anche per motivi economici, non solo per motivi ambientali. Naturalmente, ci sono sempre i motivi economici. Poi, 1998, i dati della sonda Galileo indicano che la luna di Giove, Europa, ha oceani liquidi sotto una spessa crosta di ghiaccio. Quindi fu la prima scoperta certa di acqua al di fuori del pianeta Terra, quindi un'importante scoperta astronomica, insomma, che fece poi avviare tutta la ricerca scientifica sui pianeti extrasolari e quindi più simili alla Terra. 2002, gli Stati Uniti danno il via all'operazione Anaconda contro i talebani e Al-Qaeda in Afghanistan. Fu una delle tante operazioni cominciate nel territorio afghano dal governo statunitense e dai militari statunitensi dopo l'avvio della guerra del 2001, appena dopo gli attentati alle Torri Gemelle. Una guerra che ancora tutt'oggi continua e che non ha tolto di mezzo i talebani, così come promettevano le varie amministrazioni americane. 2003, sempre 2 marzo, presso Castiglion Fiorentino, durante un normale controllo su un vagone ferroviario, ha luogo una sparatoria tra gli agenti della Polferre e il brigatista Mario Galesi, che resterà ucciso insieme al sovrintendente della Polferre, Emanuele Petri. L'azione porterà tuttavia alla cattura della brigatista Nadia Desdemone Lioce, questo nome che ha riempito le pagine, i telegiornali per anni. Fu catturata, fu uno degli ultimi, penso, arresti delle nuove BR, questo faticente gruppo terrorista italiano che non si è mai capito chi sono, un po' come gli anarco-insurrezionalisti. Poi, 2004, il rapporto preliminare delle squadre di ispezione delle Nazioni Unite confermano nel settembre appunto del 2004 che l'Iraq non ha mai posseduto armi di distruzione di massa di una certa rilevanza dopo il 1994. Questa ispezione quindi sbugiardò completamente la ragione per cui nel 2003 l'amministrazione americana giustificò al di fuori dell'ONU l'intervento in Iraq, che ha distrutto completamente il paese, ha scalzato Saddam Hussein e ha permesso alle compagnie petrolifere americane di mettere le mani sui pozzi petroliferi iracheni. Ma loro pensavano di trovarle perché gliel'hanno data loro. Però poi gli è scivolata la cosa di mano perché Saddam ha gasato i curdi. I curdi devono essere gasati perché sono un popolo, pericoloso. A prescindere, per gli equilibri internazionali. Quindi forse si sono persi questa cosa. Perché giustamente tu glieli vendi, quindi sai che sai che ce l'hanno, sei sicuro. Però non sai che l'hanno usato. Ma poi tra l'altro c'è un episodio particolare molto interessante su, questo, su questa questione. In pratica l'informativa della presenza di armi di distruzione di massa in America e in Iraq arrivò da un agente dei servizi segreti italiano, quindi noi ci siamo sempre in queste cose, che è una bufala costruita a tavolino appunto dal SISDE, mi sembra. Quindi immaginate un po', in base a questa bugia distrussero l'Iraq e continuano a distruggerlo tutt'oggi. Quindi abbiamo finito la rubrica. No. Invece non abbiamo finito la rubrica, perché oggi è successa un'altra cosa il 2 marzo. Lo sapevo. Ha riaperto la discarica di Celico. Quindi una data da segnare sul calendario. È una data da segnare sul calendario. Ha riaperto la discarica di Celico stamattina. Stamattina infatti erano tutti in fermento. È arrivata la RAI, ha chiamato la Gazzetta del Sud, articoli sui giornali. E giustamente molti sono meravigliati, visto il casotto che facciamo ogni volta, del fatto che in questo momento non c'è stato nessuna, oltre al nostro comunicato, non c'è stato nessun blocco, nessuna azione di forza, diciamo. E quindi c'era questo scompiglio stamattina in presila, però non ho notato nessuno, solo i camion, qualche camion, neanche tantissimi. Hanno perso la via, ma se ci mandano un postino e l'avvocato con l'occhiale di sole. Siamo a posto. Tanto lui sorveglia il bivio, quindi voglio dire. ci trova per strada. Ah, capito. Va bene, oggi invece di che cosa parliamo? Parliamo di cose serie. Sì, ovviamente parleremo della discarica di Celico che è ritornata ad aprire le braccia ai rifiuti della Calabria, però parliamo di Sblocchi Italia, di una serie di situazioni. Sentiremo dei contributi audio del professor Montanari, architetto. E poi collegheremo un po' questa situazione al mondo dei rifiuti, i rinnovi delle autorizzazioni in triata ambientale, dei ricorsi al TAR, come questo Sblocchi Italia va ad influire anche sulle lotte territoriali, diciamo anche piccole come la nostra fondamentalmente, come tutti i comitati che si muovono contro le discariche e gli inceneritori. E come è possibile che un governo decantandosi di sinistra possa mettere in atto con la firma anche il voto anche dell'onorevole Relacci, presidente nazionale di Lega Ambiente, possa mettere nero su bianco un decreto così assurdo che va dalle trivellazioni per la ricerca degli idrocarburi in un paese dove l'energia rinnovabile dovrebbe essere la base dello sviluppo sia economico sia lavorativo, ma soprattutto ovviamente energetico, dove ovviamente prendiamo l'esempio della Calabria, dove il 70% dell'energia che viene prodotta fondamentalmente dalle dighe che sono presenti in Sila viene esportata, quindi non avremmo bisogno di centrali a biomassa, non avremmo bisogno di pannelli solari, non avremmo bisogno di pareoliche. Siamo già autosufficienti, diciamo. Sì, però non basta perché bisogna mandare avanti questo mercato dello scambio, del surplus a tutti i costi, del guadagno e non dello sviluppo. Appunto. E poi di cosa parliamo? Una cosa simpatica volevo ricordare, dire a Lacci, mi hai fatto venire in mente una cosa simpatica. Praticamente il contributo che faremo sentire dopo del professor Montanari è un intervento che ha fatto in occasione di una conferenza pubblica tenuta presso la Camera dei Deputati il 27 febbraio scorso. Tra i vari relatori invitati che hanno preso la parola c'era proprio Relacci, che ha parlato contro lo Sblocchi Italia. Prima l'ha votato un po' come Guccione, quindi è una, diciamo, un'abitudine costante della sinistra italiana di predicare bene e razzolare male. Quindi giusto per ricordare questo episodio particolare di Realacci, un personaggio veramente, veramente da mettersi le mani nei capelli. Quindi poi andiamo avanti. Vabbè, penso che dobbiamo parlare di qualcos'altro, abbiamo dimenticato. Andiamo vedendo, adesso di sentirci Montanari. Facciamo, sì, sì, posso, giusto per dire agli spettatori chi è, agli spettatori, vabbè, ciao, agli ascoltatori chi è Montanari. Montanari, Tommaso Montanari, è uno storico dell'arte, critico d'arte, editorialista, blogger italiano, è normalista, professore associato di storia dell'arte moderna all'Università degli Studi di Napoli Federico II. Dopo aver collaborato al Fatto Quotidiano con articoli e un blog e al Corriere del Mezzogiorno, dal novembre 2014 scrive su Repubblica, sul cui sito tiene il blog Articolo 9. Quindi faremo ascoltare, ci ascolteremo insieme questo intervento, questi stralci dell'intervento che è molto più lungo. Noi abbiamo, diciamo, preso gli spunti più interessanti su cui poi dopo torneremo nella discussione qua in studio, che sono molto interessanti. Mettiamo un pezzo musicale prima. Sì, sì, sì, possiamo, e poi abbiamo con questo intervento, che torno a ripetere, ha degli spunti veramente interessanti. Se no poi si siccano. A dopo, ci sentiamo. No? Say ciao Robopolizze, ciao Sushi e Pilera. Ciao Robopolizze, ciao Sushi e Pilera. Oppa! Quindi bentornati in studio dopo questo pezzo un po' folle. Stavamo dicendo, facciamo ascoltare questo contributo del professor Montanari. Ricordiamo, noi siamo gli Scarafaggi, mi scordo sempre, è inutile che mi guarda e ridi. Siamo gli Scarafaggi, 105.7 Radio Ciroma e ciroma.org per lo streaming via internet. Quindi possiamo partire con il contributo, quindi poi rientriamo in studio e facciamo i commenti. E la storia del condono è perfetta per raccontare l'Italia di oggi, perché è la storia di una corruzione della legge cucita su misura alla preventiva corruzione del territorio. Una storia di cui oggi non solo non ci vergogniamo più, ed è per tale motivo che questa giornata è opportuna per tornare a vergognarci e quindi a ravvederci possibilmente, ma che anzi rivendichiamo. Questa è la pubblicità progresso di cui parlava Gian Antonio Stella. È una pubblicità che circola, che viene letta alla radio, che circola sui giornali e sulle televisioni, voluta da questo governo. È casa tua, decidi tu. La totale deregulation delle ristrutturazioni domestiche, un enorme condono preventivo di scala privata, i cui effetti sulla sicurezza statica e sulla qualità della vita degli italiani sono tragicamente prevedibili. Sarà imbarazzante vedere chi ha votato questo provvedimento e chi l'ha pubblicizzato così andare ai funerali di coloro che moriranno in quello che la ristrutturazione selvaggia e autogestita senza regole delle case provocheranno. Penso al sud in cui ho deciso di andare ad insegnare. È casa tua, decidi tu. Un'edizione light dello slogan padroni in casa propria, che è il vero motto della stagione del condono. Un motto che risorge non solo in un tweet del ministro Lupi, santo patrono del cemento, potrei definirlo, nell'Italia di oggi, col decreto sblocca Italia, italiani padroni in casa propria. Padroni in casa propria diventa uno spot, diventa un elemento di comunicazione positiva. E non è solo un tweet, ma sono anche le slide di questo governo, che insomma le slide stanno al governo Renzi come non so cosa dire, i decreti a Luigi Einaudi o gli studi di... Esatto, quindi proprio siamo nel cuore. In questa slide ufficiale del governo, padroni in casa propria diventa la chiave di spiegazione dello sblocca Italia in un senso positivo. Non c'è nessuna remora nell'uso diretto e letterale di quelle parole. Come ben noto, padroni in casa propria è il motto lanciato da Silvio Berlusconi nel 2001. Il presidente operaio, aveva un significato letterale, che è quello di compendiare e lanciare il piano casa in quell'occasione del 2001, ma neanche in come è stato concepito da Berlusconi, da Lunardi, che vediamo lì dietro, ma anche dai suoi epigoni attuali, un significato traslato e generale. La casa è il paese, è l'Italia. L'essere padroni è l'insofferenza ad ogni regola. E questo a me pare il punto vero. È il ribaltamento letterale dell'articolo 1 della Costituzione. All'idea della sovranità del popolo, che è intimamente legata alla comune sottomissione alle leggi, siamo tutti schiavi delle leggi per poter essere tutti liberi, Cicerone, si oppone l'idea della proprietà individuale, padroni in casa propria dove non vige alcuna legge. È un'idea texana della convivenza civile. Questa è la prospettiva dello sblocca Italia. La prospettiva dello sblocca Italia è esattamente questa. È stato detto molto bene, la deroga al posto della regola. Massimo Brai, Giovanni Lo Savio, Paolo Maddalena l'hanno spiegato molto bene. Questo è il punto fondamentale. Sistematizzare, elevare a sistema l'idea che alla regola si risponda non cambiando quella regola se non funziona, ma derogando permanentemente a quella regola oggi non c'è Salvatore Settis, che avrebbe parlato del silenzio assenso, che è un meccanismo fondamentale del condono preventivo. Se tra 30 anni alcuni residuali cittadini di buona volontà vorranno interrogarsi su 60 anni di storia dei condoni, e qui rispondo a una delle domande di Gian Antonio Stella, ma ne avremo un altro, possiamo stare tranquilli, siamo alla fine di questa storia o siamo solo a metà, io credo che avranno probabilmente ben chiaro che nei primi 30 anni, quelli di cui si parla ora, si è trattato di condoni ex post, mentre dopo questi ultimi non sono stati più fatti probabilmente, ma non per un rinsaviamento virtuoso, ma perché semplicemente non erano più necessari, essendo passati direttamente alla corruzione della legge. Questo è il punto, si è passati dal condono ex post al condono ex ante. Questo mi pare quello su cui, di fronte a cui siamo oggi. La forma stessa, la struttura dello Sblocca Italia rappresenta eloquentemente questa filosofia. Non c'è un disegno organico, non c'è uno sviluppo logico. È un decreto legge omnibus, una legge omnibus, un vestito d'Arlecchino che tiene insieme materie diversissime e centrifughe, inceneritori e autostrade, ferrovie e trivellazioni, alienazione di immobili pubblici e conferenze dei servizi. L'unico comune denominatore è la sparizione dell'idea stessa di interesse pubblico, polverizzata in mille interessi privati di lobbies, di caste, di corporazioni. È il disegno, il progetto di un paese che scompare, lasciando al suo posto l'affermazione dei padroni in casa propria, per usare una metafora che è stata usata qualche tempo fa molto appropriatamente da Eugenio Scalfari, è uno specchio rotto, che l'Italia come uno specchio rotto i cui frammenti non riescono a riflettere se non l'interesse particolare di qualcuno, ma non c'è più uno specchio capace di riprodurre l'idea di un interesse generale. Lo Sblocca Italia, abbiamo provato a scriverlo e a spiegarlo in dettaglio, è un gigantesco condono preventivo, proprio come le assoluzioni dei gesuiti del Seicento, le assoluzioni preventive contro cui inutilmente si scagliavano i giansenisti di Port-Royal, gli amici di Pascal, che cercavano di spiegare come le assoluzioni preventive non fossero valide. Se uno si chiede perché, da fiorentino, com'è possibile che questo sia avvenuto, da fiorentino non posso dimenticare che l'attuale Presidente del Consiglio, quando, racconto un episodio illuminante, quando era presidente della provincia di Firenze e si trovò invitato a dover andare a intervenire alle invasioni barbariche, glielo dissero tardi nel pomeriggio, lo dimostra un'intercettazione telefonica che è stata pubblicata in un bel libro di Davide Vecchi, chiese un elicottero a chi? A chi si chiede un elicottero alle 6 di pomeriggio per andare a Milano da Firenze? A un buon amico, a Riccardo Fusi, uno dei grandi signori del cemento, poi tante volte inquisito, condannato, ricondannato. Se le cointeressenze sono così forti, se l'intreccio è così forte, se da Presidente della Provincia si chiede un elicottero a Fusi, quando si è Presidente del Consiglio si fa lo Sblocca Italia, a me sembra che ci sia un filo che spiega queste cose. E quindi abbiamo ascoltato le parole del professor Montanari, molto interessanti. Lui naturalmente da architetto si concentrava più sui condoni edilizi, sul lato edilizio dello Sblocca Italia. Come ha precisato lo stesso professore, lo Sblocca Italia è un decreto omnibus che dentro c'è di tutto e di più. Anche il professore richiamava discariche, conferenze dei servizi, trivellazioni, gestione del territorio, urbanistica, quindi un pochino di tutto. Ed è una deregolamentazione molto, molto grossa, come giustamente sottolineava il professore Montanari, si tratta di mettere... come si dice, di rendere la deroga la legge, quindi derogare le leggi esistenti in maniera permanente. Non è più un'eccezione, ma è una prassi... Una prassi consolidata, un po' come i decreti... Come è successo qui da noi in Brasile per la discarica di Gelico, una discarica che è andata avanti a colpo di deroga e di emergenze, oggi è diventata, tra virgolette, legale nell'illegalità. Infatti il discorso sullo sblocco Italia sembra slegato, ma è profondamente legato alla questione delle discariche calabresi. Assolutamente, perché come abbiamo accennato prima, le discariche, gli impianti di discariche, inceneritori di trattamento rifiuti hanno bisogno di un'autorizzazione integrata ambientale. Esatto. E questa autorizzazione integrata ambientale viene rinnovata attraverso una serie di conferenze dei servizi, dove a partecipare sono la regione, la provincia di residenza dell'impianto, i comuni di residenza dell'impianto o il comune, l'ASP, l'ARPACAL e chi ne fa richiesta? E chi ne fa richiesta, ovviamente prima che inizi la conferenza. Esatto. E in questa conferenza poi si decide se l'impianto è idoneo o meno tramite alcune osservazioni sia della ditta stessa, che anche ovviamente la ditta partecipa alla conferenza dei servizi, sia di associazioni, o almeno così dovrebbe essere, poi spesso non è assolutamente così. Quindi ci troviamo in una situazione in cui oggi le AIA, le autorizzazioni di dati ambientali, anziché durare 5 anni, cioè venire rinnovate ogni 5 anni, devono e dovranno essere rinnovate ogni 12 anni. Un allungamento dei tempi veramente spaventoso. Non si capisce il motivo per cui è stato prolungato, più che raddoppiato, il tempo di esistenza di queste autorizzazioni, o lo si capisce, però probabilmente siamo cattivi, polemici, permalosi, incazzosi. Però insomma, siamo incazzosi, però insomma voglio dire, è evidente che lo sblocco Italia rende il nostro territorio ancora più a rischio. Dal punto di vista ambientale, dal punto di vista del dissesto idrogeologico, quindi cioè, è qualcosa che va contro gli interessi reali, dei cittadini reali, però è chiaro che va a favore degli interessi dei grandi costruttori e a favore le multinazionali. Delle multinazionali, esatto. Senso, come dimenticare le perforazioni, le trivellazioni per gli idrocarburi. Ricordiamo per il gas, le manifestazioni in Basilicata con oltre 15.000 persone, a cui hanno partecipato praticamente. Immancabile la campana. puntuale. Maledetta. Quindi insomma il discorso è questo, si tratta di un intervento legislativo che va profondamente ad intaccare la sicurezza del territorio. Come si innesta sulla discussione della discarica di Celico? Si innesta principalmente perché derogando facendo in modo che la deroga diventa la regola, quindi non più l'eccezione, in una situazione in cui già la discarica, quando non c'era lo sblocco Italia, è stata costruita, autorizzata in deroga, perché ricordiamo bene ci sono tutta una serie di deroghe, le distanze e tutto il resto l'abbiamo ricordato mille volte, quindi che cosa succede? Succede che legittimando questa prassi della deroga come legge, i Vrenna o chi per loro o altri imprenditori del genere, sia nel settore dei rifiuti, sia nella cementificazione, nelle costruzioni, eccetera, avranno via libera, avranno mano libera con la connivenza delle amministrazioni locali, perché poi quando si tratta di piani urbanistici c'è il comune di mezzo che ha tutti gli interessi a lottizzare i terreni, a cementificare ancora il cementificabile, quindi si tratta di una deriva legislativa. Chissà quando paga di IMU Vrenna Celico. Lì ci lo paga. Ma più che altro, guarda, a che ne so io. La spazzatura la paga. Vrenna avanza soldi, a che ne so io. Sì, regione avanza bei milioncini di euro. Sì. Quindi ma anche dal comune. Non sbaglio, ha fatto ricorso al TAR, al comune di Celico, per quanto riguarda i camion che dovrebbero scendere solo. Ah, sì, contro l'ordinanza. Sì. Non possono scendere più articolati, cioè arriva lo stesso quantitativo, raddoppiano i camion, però lui è un grande disguido perché comunque ci mette il doppio del tempo per ricevere i rifiuti che comunque riceverà settimanalmente. Quindi oltre il danno la beffa. Oltre il danno la beffa. E dopo parleremo anche di ricorso al TAR, perché c'è una bella, nelle brutte notizie comunque c'è una bella notizia in Calabria. Sì, mandiamo il pezzo, la diciamo. Sì, non mandiamo il pezzo. Mamma mia, guarda, abbiamo un regista nazista. Una cosa a dopo, faccio attenzione. Continuamente. Thank you. bentornati in onda su Radio Ciroma, sempre 105.7 FM e in streaming per chi è fuori provincia, ciroma.org. Noi siamo gli Scarafaggi. E adesso torniamo a parlare di cose più vicine a noi, comunque sempre collegate allo Sblocca Italia, a quello di cui abbiamo parlato fino ad adesso. E ovviamente sto parlando della discarica di Gelico, che come abbiamo detto all'inizio oggi ha riaperto le porte ai rifiuti della provincia di Cosenza, ma non solo. Potrà 850 tonnellate al giorno. A settimana. Prima ho sbagliato io, prima mi hanno chiamato dalla Gazzetta del Sud. E pubblicheranno la tua Ho sbagliato. Informazione esagerata. Sono 850 tonnellate circa a settimana, che in questi due mesi in cui la discarica di Gelico è stata chiusa sono state sversate in altri luoghi, quindi nessuna emergenza. Quindi questa discarica formalmente sembra che non serva così a tutti i costi come hanno voluto farci credere nell'ultimo anno. Eppure, nonostante le palesi illegalità, è ancora lì. Ricordiamo quali sono queste illegalità, per chi se le fosse dimenticate, magari qualche sindaco, i re del silenzio, della Presina, i sindaci, Arancioni, il postino, l'uomo con gli occhiali da sole, l'uomo che fissa i bivi. L'uomo che fissa l'ANAS. Come? L'uomo che fissa l'ANAS. Come parafrasando i fratelli Coen, c'era nel film L'uomo che fissa le capre, noi abbiamo l'uomo che fissa i bivi. Non è un paese per vecchi, potremmo anche dire, visto che moriremo prima se continuiamo così. Diciamo che questi signori, anziché occuparsi del proprio territorio, pensano a fare campagne elettorali, andare a leccare il culo a Massimo D'Alema. Ancora nel 2015 D'Alema questa settimana. Prego, non ricordiamole nemmeno queste cose, ti prego, per favore. D'Alema, esci fuori. Vieni fuori, D'Alema. Maledetto. Pietro Ricca, il grande Pietro Ricca di Milano Libera. Insomma, ricordiamo che questa discarica è stata la documentazione è stata presentata in regime di commissariamento, quindi molta roba è andata in deroga, ma questo non significa, come abbiamo detto prima, che sia legale. Ricordiamo che Rovito dista meno di 1000 metri prevista dalla normativa, e nonché la discarica da Rovito dalla piazza principale è visibile sia con gli occhi, ma soprattutto col naso, soprattutto d'estate, quando l'acidosi di questa fermentazione di rifiuti arriva a Rovito sia in pieno giorno, ma soprattutto durante la sera, dove è quasi impossibile stare per strada a bere una birra, a farsi una passeggiata con il cane, con gli amici e via dicendo, ma anche a mangiare dal balcone, come giustamente uno potrebbe fare dopo una giornata di lavoro, magari prendere un po' di brezza presilana, era considerata l'aria più pulita d'Europa. Adesso è una schifezza. Ricordiamo l'accesso abusivo sulla strada provinciale 256. Da sette anni. La vecchia strada che porta a Montescuro, dove si fa la Coppa Sila. Giusto per fare capire un po' a tutti di quale strada stiamo parlando. Ricordiamo lo sversamento di percolato avvenuto nella discarica a monte di questa discarica, la vecchia discarica, che condividono la stessa entrata, condividono la stessa pesa, ovvero dove i camion vengono appunto pesati prima di entrare in discarica. Quindi questa zona dovrebbe essere interessata da un'analisi di rischio, una caratterizzazione e quindi una successiva bonifica che metterebbe sicuramente a repentaglio l'attività di questa discarica, perché la bonifica non si fa nella direzione di dove è avvenuta la perdita del percolato, ma si fa a 360 gradi in tutta l'aria. La discarica sul cucuzzolo della montagna, voglio dire, dobbiamo chiudere questa discarica, nonché l'ARPA che l'ha sottolineato come ci sia presenza di sostanze nocive sopra soglia, senza però poi approfondire le indagini e via dicendo. Ricordiamo i corsi fluviali di Cannavino e Pinto, non a distanza di norma. Ricordiamo Celico, come di Celico, che dista solo 600 metri, una deroga allucinante, in quanto nel documento c'è scritto che, essendo la discarica non visibile dal comune di Celico, questi 600 metri si trasformano magicamente in 1000. Pensa un po'. Fuori dal mondo. E ricordiamo la strada che porta alla discarica, una strada scoscesa, una strada senza alcuna sicurezza, senza alcun guardrail, muretto, che attraversa fiumi fondamentalmente, attraverso il Cannavino, c'è un ponticello di mezzo metro, neanche 30 centimetri, sì, dove sì. I camion passano e spassano. E ricordiamo che i veicoli per la maggior parte del percorso devono ascoltarsi via radio per non incrociarsi, perché altrimenti sarebbe un gran guaio. Ricordiamo che questi camion, quando piove, si devono bloccano, devono essere trainati da un altro camion con un cavo d'acciaio. E ricordiamo che se a me si ferma la macchina per strada e mi vedono i poliziotti, i carabinieri che trainano la mia macchina, mi fanno un culo a quadretti. Ricordiamo gli incidenti che avvengono in discarica, sia dentro che fuori con i camion, sono stati ripresi più volte dal comitato, ragazzi del comitato, mandati alla procura che ha declinato ogni tipo di denuncia, assolutamente, perché ovviamente non è lecito aprire un'inchiesta sul ciclo dei rifiuti qui a Cosenza, perché altrimenti verrebbe fuori un grande bubbone. E insomma, le irregolarità sono tante, ma ce ne sono tantissime altre, sia di natura politica che di natura tecnica. Detto questo, quindi ci ritroveremo questi altri 850 tonnellate di rifiuti provenienti da tutta la provincia, compreso il tal quale che ricordiamo proviene da San Giovanni in Fiore, da tutti quei comuni che non fanno la differenziata. Sono tanti, sono veramente tanti, che ancora arrivano con questi autocompattatori che percolano da tutte le parti e vanno a scaricare in discarica, occupando le vasche che dovrebbero essere adibite per la lavorazione del compost, invece oggi sono occupate da questi rifiuti tal quali, che devono essere biostabilizzati. Addirittura il tempo di biostabilizzazione è stato dimezzato dalla nuova ordinanza di Oliverio, per accelerare i tempi di maturazione. Sì, sì, perché hanno comunque gli impianti che non sono sufficienti, quindi per recuperare un po' di tempo. Questi signori ancora oggi, dopo 3 mesi, 4 mesi, da quando è che ci sono lì, non hanno detto una parola, non hanno speso una parola sull'ambiente, però riportando una notizia del Corriere della Calabria, in questi 3 mesi sono stati spesi 8 milioni di euro per i rifiuti. Bene. Sempre un bel po' di soldini, e questi signori ancora oggi non si approntano a fare nessun tipo di dichiarazione, non dico di fatti, ma anche di dichiarazione, non dicono nulla. C'è un silenzio veramente incredibile. Come si chiama quello del giudice qualcuno Andrea, trovi maledetto, rifiuti zero, maledetto, voleva andare in Svizzera a parlare con uno che fa inceneritori mentre domani a Reggio Calabria c'è un incontro sui rifiuti zero, sempre del comune di Reggio Calabria, che ricordiamo è sempre un compagno uccione del PD, Falco Matà, nuovo sindaco, nuovo che avanza. Voglio dire, nuovissimo. Giudice, sei di strada, c'è il consiglio a Reggio. Quando vai al consiglio, passa dalla provincia di Reggio, ti fermi che c'è rifiuti zero, vai lì, ascolta. Ma ti dicono che non servono gli impianti, serve solo la volontà politica a fare. Che poi è un'iniziativa molto, molto importante, perché si tratta, cioè, un comitato scientifico. Assolutamente, non, sì, non è un'iniziativa, che di tutto rispetto. Sono non 4 persone raccattate per strada che parlano di rifiuti zero. È un comitato scientifico che si occupa della questione, che ha lavorato alla stesura della legge. Gente che ha già messo in pratica rifiuti zero. Quindi stiamo parlando di esperti del settore. Quindi, giudice Andrea, se ci ascolti o se ci ascolterai, non lo so. Ma anche i nostri sindaci, noi abbiamo inviato una PEC tramite la mail del Comitato Ambientale Presilano a tutti i sindaci della Presile, invitando, avendo loro approvato dei documenti, soprattutto il Comune di Rovito ha approvato 2 documenti, l'ultimo neanche 15 giorni fa, su rifiuti zero, potrebbero andare, visto che ce ne hanno tempo per andare a Reggio Calabria un paio d'orette, vanno, ascoltano, imparano così non pensano che siamo dei pazzi a dire queste cose, che rifiuti zero si può fare, esiste, può essere applicato anche in Calabria, anzi soprattutto in Calabria, dove la quantità di rifiuti da trattare è veramente esigua rispetto ad altre zone d'Italia, dove comunque è già stato applicato il sistema rifiuti zero. Detto questo, una classe politica che nel 2015 non si rende conto che rifiuti zero non è una scelta, non è un'opzione tra le tante. Rifiuti zero è l'unica opzione per risolvere il problema della gestione dei rifiuti. Questa è una cosa che va detta chiaramente. Attualmente, con i volumi di produzione dei rifiuti da parte delle famiglie, cosa che andrebbe cambiata, c'è tutto un discorso da fare sull'educazione ambientale e tutto il resto, ma attualmente l'unico modo per risolvere il problema dei rifiuti è rifiuti zero, è la strategia complessiva di rifiuti zero, che va a toccare la produzione a monte, va a toccare le tipologie di consumi, va a toccare la tipologia di stoccaggio, gli impianti, è tutta una strategia complessiva. Quindi le grandi città come Los Angeles, come San Francisco, che entro il 2020 arriveranno all'obiettivo rifiuti zero, che la praticano ormai da 20 anni più o meno, sì, se non di più, 15, sì, 20 sì, anni. Sì, sono... quindi Sono città grosse che hanno una produzione di rifiuti che, cioè, noi non ci vedono proprio. Quindi, poi gli americani, figurati, no? Il popolo del consumismo, l'American Dream, insomma, voglio dire. Quindi, cioè, se quello è l'esempio che dà una metropoli come San Francisco, perché qui in Calabria la classe politica non si rende conto di questo? Perché evidentemente la volontà politica è stata da tutta parte, perché gli interessi che stanno dietro alla gestione dei rifiuti stanno da tutt'altra parte. E qui ci ricolleghiamo a quello che dicevamo prima sullo Sblocco Italia, l'hai ricordato prima tu, sulla discarica di Celico, costruita in deroga e tutto il resto, le autorizzazioni che sono state date in emergenza. Allora all'epoca l'emergenza giustificava l'utilizzo della deroga, oggi con lo Sblocco Italia l'utilizzo della deroga sarà sistematico, quindi non ci sarà più nemmeno bisogno di creare l'emergenza rifiuti, perché con lo Sblocco Italia hanno davvero via libera, mano libera alla distruzione del territorio. Quindi questa è la situazione, questo è quello che abbiamo di fronte, e qui c'è bisogno di una presa di coscienza collettiva da parte delle popolazioni. In Presila la situazione della discarica, che da 15 anni va avanti, perché la vecchia discarica, lo ricordavamo, è peggio di questa nuova. La vecchia discarica era operativa dal 97, esatto, fino al 2003. Ed è una bomba ecologica. È una bomba ecologica che già è mezza esplosa con la perdita di percolato, esatto, del 6 ottobre ma 2014. Ma sono anni sì, di testimonianze. È stata quella semplicemente che abbiamo beccato noi, ma esatto, sai quante volte sì, perché perduto... ci siamo trovati lì, abbiamo avuto questa, diciamo, fortuna tra virgolette, chiamiamola fortuna. Però voglio dire, sono 15 anni che gli effetti di questa discarica si sentono, le persone che si ammalano di tumore nei nostri territori non sono un'invenzione o arriviamo alla solita questione del non si può dimostrare la correlazione c'è ed è evidente, perché una discarica che sversa percolato nel terreno inquina le falde acquifere, inquina gli alimenti, inquina la catena alimentare, nella catena alimentare. Il discorso è che questi signori hanno oliato dei meccanismi che adesso devono garantire. Diciamo che se la discarica fosse stata mia sarebbe già chiusa, però è di mi sto inchinando in questo momento di Don Raffaele Vren, e quindi dobbiamo garantire che questo signore riprenda i pochi soldi che ha investito, perché ricordiamo che 1,5 milioni di euro sono di soldi pubblici. Patto territoriale Silano, dove ci sono tutti i sindaci della nostra amata Presila, che hanno svenduto il territorio e hanno pensato che lo sviluppo della Presila potesse essere improntato sui rifiuti. 20 anni di rifiuti più 50 anni di morte e inquinamento. È chiaro, noi l'abbiamo detto più volte in tutte le occasioni in cui abbiamo potuto dirlo, che la discarica di Celico è l'emblema del fallimento della classe politica che ha governato per 30 anni, 35, 40 anni la Presila. È evidente, è il fallimento totale di una classe politica e di un partito, perché poi alla fine sono sempre loro, sì. PC, PDS, DS, DRITI, Prototu, PD, e oggi arriviamo al grande PD di Renzi, sto pseudo partito fascista, perché in realtà di questo si tratta. Questa è la storia presilana, è la storia di questo partito e di questa classe dirigente. E oggi con Oliverio, che viene da quella tradizione e si continua a portare avanti questo tipo di politica, e non parlo soltanto dell'ambiente ma di tutto a 360 gradi, questo è la storia che abbiamo di fronte, e questa è la gente che abbiamo di fronte. Quindi, insomma, voglio dire, la situazione è veramente, veramente tragica, anche perché alternative all'orizzonte non se ne vedono. Quindi ritorniamo al discorso di prima, la presa di coscienza della gente, della popolazione, rispetto a queste problematiche è fondamentale. Da questo punto di vista noi come comitato che cosa dobbiamo fare, Italo? Cioè, diciamolo di nuovo, facciamo un appello, andare paese per paese, chiamare la gente a raccolta, perché è inutile organizzare sagre da Sazizza, festa degli Arnedos, sagre come si chiama, a chiari di Celico, come quelle di Celico, la passione, no? Non lo so, che fanno a Celico? Quello c'era Voltarelli quest'estate. Vabbè, insomma, tutti quei festival, se poi ci ritroviamo in un paese malato. La festa dell'effimero. Come feste ci sta pure, però sì, c'è una priorità, penso. No, le feste ci stanno, ma io voglio che le feste siano molte di più, però in una situazione ottimale. Dove si può festeggiare, dove c'è qualcosa da festeggiare. Assolutamente. Cioè, Minnito, come si chiama, su 100 persone ci sono 20 tumori, non so cosa c'hanno da festeggiare. beati loro che riescono a prenderle in questo modo. Ma no? Infatti non sono contro le feste, io vorrei che si risolvessero il problema e si facessero più feste, portando più artisti, facendo feste più grandi tutti insieme, un bel festival serio per la Presila che porta gente da tutta Italia, non ognuno per fatti suoi, la saga della patata, la saga della zucca, la saga della salsiccia. Anche perché è evidente che con questo tipo di politiche i costi crescono in tutti i settori, dalla sanità appunto ai rifiuti, ai trasporti pubblici e tutto il resto. Quindi con questo tipo di politiche crescono i costi. La discarica va bloccata e solo la popolazione la può bloccare, perché i sindaci non la vogliono bloccare. I sindaci bloccheranno la discarica quando ci saranno 2.000 persona a bloccarla, perché si cagheranno nelle mutande, perché penseranno di aver perso, come è successo l'anno scorso, il consenso popolare a causa di un manipolo di ragazzi che ha fatto capire alla gente che c'è qualcosa di più importante che una delega in una cabina elettorale, ma la propria salute, la salute del proprio ambiente, delle future generazioni. Quindi sarebbe il caso di riscendere per strada, di ribloccare e di far venire i sindaci da noi, visto che loro, quando noi andiamo da loro, non ci sono mai, nonostante gli orari di ricevimento, gli appelli su Facebook, che loro sono presenti, gli impegni presi in consiglio comunale, i ricorsi al TAR non fatti. A proposito, prima di chiudere, visto che tra poco chiudiamo, ricordiamo che c'è un ricorso al TAR da fare, ancora è tutto fermo. Il nostro avvocato ci ha comunicato che sono in un punto il 23 marzo per scade. Sì, in un punto morto, ancora è tutto fermo, il Comune di Rovito non ha agito. Vabbè, risponderanno, il 23 marzo, se il Comune di Rovito non fa il ricorso al TAR, poi risponderanno. Risponderanno sicuramente, però io vorrei non arrivare a questa situazione, perché non è possibile che un comune non riesca a fare un ricorso al TAR. Ricordiamo che, per esempio, un successo in Calabria è stato decretato dal TAR del Lazio proprio questa settimana, che ha bloccato la valutazione di impatto ambientale della centrale delle Saline Ionico, dove c'è stato un comitato insieme a Greenpeace che si è speso e ha preso anche belle batoste e denunce, anche perché Calogna in questo momento è in corso un processo a Reggio Calabria contro 4 attivisti accusati dalla multinazionale di Calogna per una vignetta, altro penso che Jesuì Charlie. Maledetti. Insomma, la situazione è questa qui. Quindi noi vogliamo che la gente si svegli. Dobbiamo fare qualcosa adesso. Non perché non vogliamo la discarica nel nostro giardino, ma perché questa discarica è illegale. Le discariche servono anche a rifiuti zero per portare avanti questa strategia, ma fatte dove si devono fare, dove si possono fare, piccole, che accolgano meno rifiuti possibili, che non invitino a produrre più rifiuti con una discarica di Cerico 300.000 metri cubi, un buco in piena montagna, in pieno parco nazionale, in piena Sila, che uno arriva, magari viene da Milano e dice vado in Sila, ci manco da 40 anni, come è successo l'anno scorso, ti ricordi Andrea con quel signore della Valsusa, riportato in Sila e detto che cazzo è sto cosa, ci mancavo da 40 anni però... Dobbiamo accedere alla discarica invece di qualche pino bello e un qualche piazzola. I pini c'hanno la processionaria per 1.000 metri, ovviamente. Vabbè, diciamo insomma che il cartello di benvenuto al Parco Nazionale è la discarica, quindi welcome to Parco Nazionale, e c'è la discarica. È una bella pubblicità progresso per il nostro territorio. Si riempiono la bocca di turismo, di sviluppo e qua e di là, e queste sono le cose che vanno a fare. Quindi andiamo in chiusura perché... Dopo c'è un'altra trasmissione. Il nazista. Io direi di avvisare i cittadini che prossimamente saremo le piazze della Presila per incontri pubblici, assemblee pubbliche. Ritorniamo, diciamo, un pochino come l'anno scorso, no? Mostreremo il video che riassume 20 anni di questa Presila martoriata. Sì, stiamo preparando un video che è molto molto interessante. Lo lanciamo adesso. Ci stiamo organizzando perché se sarà necessario dopo il 23 si occuperanno, non solo ci saranno dei blocchi, ma penso che occuperemo anche qualche comune a partire forse dal nostro. Non si sa ancora, non è deciso, ma sono azioni che stiamo valutando e penso che andranno fatte se ci ritroveremo con un comune che è fermo, dormiente, come il nostro. Però soprattutto. Manda un messaggio al sindaco perché sennò non se ne accorge. Sì, invece io penso di chiamare Felice, visto che conosciamo personalmente almeno 2 giorni prima, dico guarda Felice, dopodomani occupiamo, per favore. Niente matrimonio a Rossano. Niente matrimonio a Rossano, riunioni, salta, tanto non sono importanti le tue. E niente, noi stiamo venendo. Andiamo in chiusura allora, dopo queste battute. Andiamo in chiusura. Abbiamo chiuso in bellezza. Sì, ricordiamo sempre gli Scarafaggi, Radio Ciroma 105.7 FM e streaming su ciroma.org. Noi siamo il Comitato Ambientale Presilano, vi ricordiamo il nostro...